chiedo asilo. Ogni giorno. Ma no, non devi fare il promo prima che cominci la trasmissione. Perché Drago? No? Ma perché appena sta per cominciare? Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Tu col cognome che hai, Drago, sei assicurato per il futuro. In che senso col cognome? Perché il futuro è cinese, no? Non siamo mica Berlusconi. Ma il futuro è cinese. Cosa c'entra il futuro cinese? Il drago cinese. E cos'è il drago cinese? È un segno dell'oroscopo cinese, che tra l'altro è l'unica creatura mitologica presente nello zodiaco cinese. Sì, perché ci sono i galli, topi, eccetera. Sì. Tutto questo è molto interessante, però non credo che mi possa garantire un trattamento di favore da parte dei cinesi. Non sottovalutare l'importanza di chiamarsi Drago. Chiedo asilo! Comunque c'è un grande boom dei barbieri cinesi, magari mi fanno lo sconto lì. Milano si è riempita di barbieri molto economici, sì, e sempre più alla moda, perché vanno anche le sciure. Moda, sì, perché sì. No, hanno un solo taglio di capelli, hanno il taglio corto normale. Vabbè, dai, uno si vabbè, se vuoi qualcosa di diverso non sanno nemmeno da dove cominciare, non sanno nemmeno che cosa gli stai dicendo. Loro ti dicono sì sì, ma in realtà vogliono dire sì, sento che mi stai parlando, non ho capito. Se tu porti una fotografia e dici voglio il taglio così, più o meno capisco. Ci deve essere qualcuno che te l'ha fatto però prima il taglio. No, vabbè, gli porti la foto di George Clooney, loro non capiscono. Ah, non dicono, sì sì, George Clooney. Vabbè, comunque vorrà dire che quei pochi soldi che ci sono adesso, uno si accontenterà di avere un taglio corto normale e buonanotte, no? Il problema dei commercianti cinesi in Italia è che applicano il modello cinese di commercio. Vabbè, sono cinesi. Ma non funziona qui. Cioè, vai a tagliarti i capelli e te li tagliano in un modo solo che quello cinese. Nel bar, vai al bar gestito dai cinesi, non c'hanno niente. Cioè, tu gli chiedi un panino, aspetti, ti siedi al tavolo, dopo mezz'ora arriva e ti chiede un panino. Vabbè, ma quello è un problema di comunicazione. No, ma non di comunicazione. Che cosa stai a fare lì mezz'ora seduto al tavolo? Ti piace il bar, no? Aspetti il panino. Allora, lui di là nel suo sgabbiotto, cos'è che sta facendo mentre tu aspetti il panino? Probabilmente non ha la merce per fare il panino, perché essendo cinesi. Ma è un sistema, guarda, cosa vuol dire? Comprano le cose. Basta non avere niente nel bar e tutto funziona. Questo mi fa sorgere un sospetto. Che non sia un bar, che sia una copertura. Ma sei sempre lì. Ma quale copertura? Come sempre lì? E cosa fanno? Cosa fanno? Non so io cosa fanno. Uccidono i cani e se li mangiano. No, dai, sta attento perché qui... Ma stavo scherzando. La prossima volta che ti porto al bar cinese. Ma sono le solite cose che si dicono, anche dei comunisti, bambini, no? Quelle cose lì. Voi parlate con le voci pallose dei grandi, le parole noiose e annoiate fanno schiuma sui piatti rotondi. E pensare che avevate detto che qui c'era da attendere poco. Non ho preso neanche un giornaletto. Non ho preso neanche un videogioco. Guardo avanti, a destra e a sinistra. Nella sala la noia fa un velo. Guardo fuori da una finestra i cartoni animati noiosi delle nuvole in cielo. Mamma Elfo vide il piccolo elfo e gli disse: no, vabbè, no, ma cosa? Ma questo pifero! Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Vabbè, Entchen in das Wasser, Entchen in die Höhe. Vabbè, comunque. Ma basta, dai! Basta, vedi che appena ti si insegna qualcosa tu subito riottoso. Io sono qua sempre per parlare, come mi fate domande, no? Allora, fatemi il rito, sto bambino Alberto, come va? Ci racconti qualcosa? Allora, ecco. Sabato? Sì. Sono stato a trovare il nonno all'ospizio. Ah, vabbè, che allegria. Voi sapete che mio nonno è vecchissimo. Sì, lo sappiamo. Cioè, di un'età. Sì, ha 60 anni, dai. Imponderabile. 60 anni, non 60. È che sia vecchio. 60! 61! Li ha compiuti ieri. Vabbè, ma 61 non è vecchissimo, dai, 61. No! No! Ma come no? 61 anni! Vabbè, dai, e questo è il nonnino come sta? No, abbastanza bene. Cioè lui ha un tubo in gola, ma quello già da un po'. E poi è sempre immobile. Quindi la regola. Sta bene, costante. Diciamo. Sì, in decorso. Però è cominciato a preoccuparmi. Ci credo. Perché di solito al suo compleanno il nonno ci dà la busta a me e mio fratello. La busta con i soldi? La busta con i soldi, per forza! La busta con l'eroina! Ma no, ma che eroina? La busta con i soldi. E poi è strano, scusa, in genere i nonni la busta la danno quando il nipote compie i soldi, mica al contrario. Sono usanze. Fatto sta? Ogni compleanno suo, il nonno ci dava sta busta con i soldini. E quest'anno no. Vabbè, ma c'è la crisi, bambino Alberto. Certo, hanno tassato le pensioni, e la busta non arriva. Vabbè, ma mio nonno non è ancora in pensione. Vedi, non è vecchissimo, quindi non è ancora in pensione. L'hanno licenziato dopo che è stato male. Attualmente è senza reddito. Vabbè, ma allora puoi capire da solo che se quest'anno niente busta, non è per colpa di tuo nonno. No, allora cos'è? Per la crisi generale. Certo. Secondo me non è per quello. Non c'entra la crisi mondiale. È proprio che è lui che è in crisi. Mi sa che è un po' gli ultimi lui, no? Ma dai, ma non portare sfiga anche tu. Vabbè, ma sfiga, qui è questione di realismo. Ieri non si è proprio mosso, Niente. Di solito facciamo un cenno col pollice. Quasi impercettibile. Però ti voleva dire, ragazzi, per il cassettino che c'è la vostra busta. Comunque c'è nulla. Quest'anno immobile, abbiamo guardato un po', aspettando il gesto, neanche io né mio fratello, siamo guardati e dico, allora, sta busta, niente. Allora siamo andati. E le abbiamo lasciato il regalo di compleanno. Per lui. Per lui. La solita, tradizionale e benvenuta stecca di muratti. Al nonno, immobile. Ma che scena triste. Poi le muratti, con tutto rispetto. Ma guarda che mio nonno anzi, era un grande fumatore, mica pirla. E comunque niente busta. Guarda che si sa di gente anche molto ricca che di buste ne ha date via parecchie nella vita, che ha smesso di elargire buste perché i tempi sono cambiati. Mettiti il cuore in pace. Se poi aggiungi il fatto che tuo povero nonno, insomma, non sta affatto bene. Buste, basta. Posso darti di buste. No, invece buste proprio basta. Non riuscivo a darmi pace. Appena siamo usciti dall'ospizio, io ho inventato una scusa, una genialata mi è venuta. Ho detto che mi scappava la pipì a mia mamma. Quindi sono corso di nuovo dentro e la mamma mi ha chiesto: ma bambino, lo sai dove sono i bagni? E io dico: sì! Invece non lo so. Quindi, però io sono tornato nella stanza del nonno, no? Ho cominciato un po' a stimolarlo. Ma come? Non per interesse, per lui, per farlo vedere così immobile. A tirarli un po' per le braccia, no? Come? Ma lo strattonavi? No. Ma è? Sì, però non reagiva. No, ma la busta! Ma vai la busta! Ma come? Almeno busta? L'ultima parola! Ma bambino Alberto! Con l'ultimo respiro, dimmi dove è la busta! Ma non è possibile! Ma è mica il segreto di... E niente, però lui respirava male, no? Riso pensavo che stesse per parlare, invece no, perché stava andando in coma. Ma come? E alla fine? Alla fine niente, sono tornato dai miei con la carne agli occhi. Vabbè, ma povero per la busta, ovviamente, no? Ma come? Pensavo vedere il nonno in quelle condizioni, lacrime agli occhi. Ma quale nonno? E quelle condizioni? A parte che quelle condizioni da tempo immemore. E poi comunque io volevo la busta, no? Io penso che viviamo una regressione culturale, una regressione civile, una regressione molare e anche una regressione politica. Chiedo asilo! Standard and Poor. È un nome un po' fuori luogo, dai. Standard, perché? È un'agenzia di rating e quindi creano uno standard. Uno standard a seconda del quale definiscono la ricchezza o la povertà di un paese. Più o meno, sì, bravo, sei bravo. E come si chiamano i due fondatori della società di rating? Mr. Standard e Mr. Poor. Cioè il signor Standard e il signor Povero. Vabbè. Come nei romanzi di Dickens, Drago. Vabbè, ma non potevano chiamarsi Johnson and Johnson. Se facevo shampoo. Era più serio, Standard and Poor. Ma è un caso, cioè non è che potevano cambiarsi i cognomi solo perché sembravano due personaggi di Dickens. Standard Mr. and Poor. Standard è medio in tutto, no? È come Linus. Sì. E invece Mr. Poor va in giro con le scarpe rotte. Io me li vedo. Ma smetti, me li vedo, capo, Drago. Sì. Già che c'erano, potevano chiamarsi Standard, Rich and Poor. Solo che poi i ricchi e i poveri c'erano già, gli facevano causa. Ma a chi? A Standard and Poor? No, a Standard, Rich and Poor. Ma sì, ma te la vedi la brunetta dei ricchi e poveri che fa causa a un'agenzia di rating? La brunetta dei ricchi e poveri. Vuoi dire che brunette prima di fare il politico cantavano i ricchi e poveri? Tito, dai, cosa c'è? Se potessi, ti direbbe niente. Indignados como nosotros. E per contattare Chiedo Asilo. Per far star zitto K, soprattutto potete chiamare 02 46 52 44 95, lasciare un messaggio in segreteria oppure scrivere a Chiedo Asilo radio24.it oppure andare sulla pagina Facebook Chiedo Asilo Radio 24.